Allacciatevi le scarpe, vi porta a fare un giro. Luca Quarto Oblio. Oh. Come una bestia da macello, sono un musico fallito, mascherato pirandello, vittimismo indefinito. Sono come un ciclamino, un aquilone contadino, e non ho mai cercato un produttore a tavolino. Pubblicato da profano una manciata di canzoni, non voglio il tuo successo, una crociata di mattoni. Il mondo è pieno di caproni, di fornai, di donne delle pulizie, gente sola come marinai. Ho capito quanto conta amare solo la tua donna, il tuo lavoro, la tua forza. Non mi sento carne morta, io mi sento in equilibrio e seguo la mia strada. Tutti schifano la torta dopo averla già mangiata, ma tutto un giorno cambia quando prendi una trambata, perché tutto così futile da sola una fermata. La musica mi cura e la vittoria una fanfara, la voce della mia immortale vita impara. Sto seguendo la mia strada dalla terra su impicchiata fino al cielo tra le stelle. La mia penna non si arrende, io combatterò le tue alte maree, io resisterò con tutte le mie idee. Sto seguendo la mia strada verso un'altra alba chiara. Illuso, perso un paradiso in cui non credo affatto, rinchiuso dentro un labirinto, adesso scappo come Icaro. Prendo il volo, le mie ali sciolte al sole, cado al suolo. Il mondo un labirinto costruito ad arte, il sole, l'universo e le stelle circostanti, ad affidare a loro i nostri guai, siamo in tanti. E se piangi per amore hai imparato a vivere, se ti chiudi nel tuo mondo continua a scrivere, se balli per passione continua a farlo. Questo sogno non è poi così lontano, versa lacrime e sudore, perdi notti, giorni e ore, metti cuore, testa, amore, dove oggi è tutto nero, domani avrai colore. E se vogliono fermarti, non ascoltare, è l'invidia che fa smettere la gente di pensare. Seguendo la tua strada, vedrai che questa vita ti sembrerà meno amara. Sto seguendo la mia strada dalla terra su impicchiata fino al cielo tra le stelle. La mia penna non si arrende, io combatterò le tue alte maree, io resisterò con tutte le mie idee. Sto seguendo la mia strada verso un'altra alba chiara. Sto seguendo la mia strada dalla terra su impicchiata fino al cielo tra le stelle. La mia penna non si arrende, io combatterò le tue alte maree, io resisterò con tutte le mie idee. Sto seguendo la mia strada verso un'altra alba chiara. Original Pro Studio 2009. Io seguo la mia strada, Oblio segue la sua strada, Ivano, Zero Man, Steno, Beppe, Enjoy, tutti i miei fratelli seguono la loro strada, ciao.